europea avevamo organizzato un gruppo di persone che non erano solo dipendenti all'Italia, ma erano anche familiari di dipendenti all'Italia, che hanno fatto simbolicamente una giornata di sciopero della fame per far pressione sull'Air France. Il risultato si è avuto. A questo punto però la palla passa ai sindacati italiani. Esattamente, ecco. Esattamente. Allora, io penso che continuerò il mio sciopero della fame, ora insieme a quello di altre 9 persone, perché siamo 10 persone in sciopero della fame. Io credo che sia l'unica soluzione, l'unica via d'uscita, un referendum fra i lavoratori. Per tanti di noi può cambiare la vita, qualcuno purtroppo perderà il posto e quindi è il minimo che si possa fare un referendum fra i lavoratori. La sua sensazione è che tra i dipendenti inizia ad avanzare la volontà di accordarsi con Air France o si rimanga distanti da quell'accordo? La stragrande maggioranza dei dipendenti all'Italia è favorevole all'Air France, anche perché alternative non ce ne sono.